Piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun. Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla. Ed eccoci dalla regia della stazione, venerdì 22 gennaio, e sarete sorpresi, stupiti, forse annoiati o quasi impauriti, perché continuate a sentire la nostra voce dopo 2 ore, perché come chi era in onda fino adesso saprà, eravamo in onda con la nostra dama, ma anche con la nostra compagna di Nervature, per il Ponte Radio di questa settimana a tema cibo. Quindi avrete il piacere di sentire la nostra voce per 4 ore di fila. Siamo sempre noi con l'aggiunta della nostra Pamela e siamo su Radio Contado, quindi se volete scriverci in diretta potete scrivere sul pad che trovate sul sito di www.radiowombat.net oppure a radiocontado@insiberia.net. E siamo alla puntata numero 175, ottava stagione, tanta roba. Esatto, ma non abbiamo finito gli argomenti, nonostante sia già appunto dopo passato 2 ore. Di cosa parleremo oggi? Allora, andremo volando in Campania per sentire un compagno che ci parlerà di un incontro che si terrà il 7 febbraio in preparazione di un possibile genuino clandestino che si dovrebbe tenere appunto in territorio campano. E poi sentirete un'intervista che purtroppo ho dovuto registrare stamattina perché il compagno di Ari non poteva durante questo orario, e quindi parleremo con lui un po' della situazione della Palestina e legata un po' agli attacchi che ci sono stati alla sede dell'UAC sia a dicembre, c'erano già stati a luglio, ma diciamo poi quelli di dicembre, in particolare all'appello che poi aveva fatto uscire Ari, e abbiamo anche un po' un responso di una risposta che gli è arrivata in anteprima, ma non vi svelo nulla. Dopodiché, ovviamente, avremo il nostro stupendo e gioviale AgriQuiz per alleggerire un po' i nostri umori, e proseguiremo con Luca che invece ci parlerà della Babele di semi che avverrà a Torino. Chiuderemo ovviamente con il nostro cult di Cinemela. Ed ecco tutto, e quindi mentre ci prepariamo al primo collegamento, vi mandiamo una bella canzone che dedichiamo al nostro amico Palmiro, perché l'ha scelta lui. Abbiamo dei telefoni da qui. Riposerai ora sempre giù. Eccoci, e siamo subito in collegamento con Pietro, un compagno di Salerno della bibliotechina ambientalista Silvio Pausani, con la quale, insomma, con una serie di compagni, il nodo campano di Genuino Clandestino si è proposto di organizzare il prossimo incontro di Genuino Clandestino. Ci senti, Pietro? Sì, ciao a tutti, grazie mille di questa possibilità di raccontare cosa sta succedendo. E quindi vabbè, partiamo subito chiedendoti, ma chi siete? Chi siete? E poi a seguire magari ci dici un po' che cosa avverrà il 7 febbraio, se non erro, a Salerno. Sì, intanto almeno noi però diciamo abbiamo creato rete un po' nel territorio. Io personalmente sono qui da 8 anni e abbiamo creato questa bibliotechina ambientalista intitolata Silvio Pauselli, il Mugnaio Buono, e ci occupiamo di tutela ambientale e anche molto di custodia di semi contadini, che come sappiamo sono sempre sotto attacco da quello che è il sistema, insomma, che non tutela questa, la possibilità di anche la custodia in sé, anche la possibilità di venderli, per esempio, per noi magari piccoli contadini, perché alcuni di noi sono dei microproduttori, per esempio. Quindi c'è tutto il tema, diciamo, appunto, è la sovranità alimentare, insomma, la biodiversità per quello che riguarda i semicontadini, è un tema per noi forte. E organizziamo da 8 anni qui a Capaccio un formale scambio dei semi. Naturalmente c'è anche una realtà informale di famiglie che portano avanti i loro semi, però ecco, noi organizziamo da alcuni anni, appunto, lo scambio di semi locali, e quindi abbiamo anche conosciuto e collaboriamo con altre realtà identiche a noi. In particolare negli ultimi 4 anni organizziamo lo scambio con Casa Pacciamama PS, che è una splendida associazione di Olevano sul Tusciano, sempre provincia di sud di Salerno, con Casale Fontanelle, che è un progetto comunitario sui monti di Cicerale, sempre provincia sud di Salerno. E oggi appunto ci date la possibilità di parlare del fatto che ad aprile il Genuino Clandestino Nazionale, quindi il regionale, ci hanno contattato per organizzare questo raduno, che in realtà nasce da una pessima notizia, tra virgolette, per noi, nel senso, è stato scelto la provincia di Salerno perché il CREA di Ponte Cagnano, e la Facoltà di Agraria di Salerno sono molto attive, anche l'Agritech Center di Napoli, sono delle istituzioni o un mix nel caso dell'Agritech Center di enti pubblici e privati, sono molto attive nella sperimentazione, nella divulgazione dei nuovi OGM, TEA e MGT, quindi ecco per questo dicevo non è proprio esaltante, e infatti anche non ci sono aderenti alla rete di genuino clandestino attualmente nella provincia di Salerno, e quindi il 7 febbraio ci sarà un'assemblea, una riunione organizzativa in realtà proprio per chi vuole metterci mano, ecco, nell'organizzare, nel pulire, nel cucinare, insomma, nell'allestire l'attività, e si farà presso un compare con quale abbiamo anche messo un grano, lui è un coltivatore di grani antichi, un figlio di contadini, un contadino proprio di tradizione familiare. E quindi l'obiettivo è proprio fare una chiamata, insomma, a chi è di genuino clandestino o nonno che è interessato, eccetera, per costruire insieme l'incontro di aprile. Esattamente, lo scopo di questa prima riunione organizzativa, c'è qualche adesione, ma speriamo sempre in una maggiore partecipazione, perché poi essere più attivo, insomma, come cittadino, penso sia l'approccio migliore rispetto a non subire passivamente, insomma, quelle che sono delle scelte calate dall'alto, e quindi sì, è un incontro proprio per costruirlo nel pratico, ecco, assolutamente. Quindi speriamo che, insomma, da tutta Italia possano partecipare diversi membri di Genuino Clandestino, ripeto, anche non, nel senso che comunque Genuino Clandestino è un movimento aperto, per poter organizzare. E il tutto si svolgerà a che ora, dove, chiedete qualcosa in particolare? Siamo appena usciti, abbiamo appena ricevuto un comunicato, diciamo, da distribuire, da divulgare, e intanto è una chiamata per quella giornata. Immaginiamo comunque, già posso diciamo anticiparvi che, insomma, quello che ci gira, insomma, nella testa di organizzare è che più o meno dalle 10 di mattina ci si troverà lì per organizzarsi, quindi sarà un cerchio, una riunione, e per poi mangiare qualcosa insieme. Fondamentalmente mi dicevano poi che, come vostra, diciamo, abitudine un po' della rete, ma è lo stesso per noi, insomma, c'è un convivio molto semplice, auto-organizzato, insomma, un po' rurale, insomma, ecco, ognuno porta qualcosa. Però naturalmente noi siamo padroni di casa, oltretutto è il mio compleanno, quindi ha voglia che ci sarà, diciamo, prepareremo. Mario è un grande preparatore col forno, accenderà il forno, quindi sarà il solito convivio per noi, semplice ma contadino, insomma, tutti i prodotti tutta roba nostra, insomma, però naturalmente è un gradito dono, insomma, come si dice, uno busta coi piedi, per carità, è bellissimo così. Poi non so se poi vedremo un po' con gli sviluppi, diciamo, vorremmo cercare di andare, uno ci prova sempre sul sintetico concreto, magari anche per lasciare spazio poi dopo per invece chiudere la riunione e conoscersi, perché verranno persone da fuori, si spera pure persone proprio della rete, che un po' ci sono tanti progetti qui in provincia sud di Salerno, ma veramente tanti. Noi li abbiamo anche censiti qualche anno fa con un movimento Fili di Paglia, adesso c'è anche fatto una nuova chiamata la comunità autarchica di Albanella, che è un bel gruppo di Altavilla, per recensire e riorganizzarsi un po'. C'è molto fermento qui, quindi speriamo nella partecipazione. Quindi con l'occasione potrebbe essere anche, insomma, un buon momento di trovo fra realtà anche vicine a voi, con l'intento poi, oltre di costruire il genuino clandestino, ma poi di mettere un po' a confronto le realtà per costruire poi anche in futuro altre robe insieme. No, ma noi sicuramente pensiamo questo in maniera molto chiara. Ci sono le solite difficoltà che immagino tutti viviamo, insomma, sul collegarsi, nella collaborazione sta bene tutto, però assolutamente siamo insieme, come dicono molti amici africani che sono qui, insomma, quindi ci sappiamo, siamo tutti sulla stessa barca, insomma, quindi è anche un discorso ecologico, almeno, diciamo, personalmente è un'interpretazione che mi viene anche un po' dall'ecologista, cioè proprio da come uno coltiva, insomma, creare delle collaborazioni, dei rapporti, un network già solo scambiarsi informazioni, ma il concreto ci aiuta secondo me in maniera forte, a, anche a livello proprio mentale, rispetto a sta bagar di informazioni, insomma, e quindi assolutamente l'idea è sempre di nutrire con questi semini, che sono questi semi anche degli incontri, un percorso corale. E comunque è vero che si crea, abbiamo avuto una bella esperienza, io magari ci ero rimasto anche male perché spero sempre di più, no? Punto sempre più in alto, e però si sono create tante collaborazioni nell'organizzare riunioni come questa, nel preparare appunto delle assemblee per incontrarsi, perché poi viviamo il problema, diciamo, per chi fa contadinanza oppure associazionismo, è che è difficile uscire dalla propria associazione o dal proprio campo e andare a incontrare, è una scelta molto, cioè, che ci vuole, nel senso, non tutti, infatti, per questo raccordarsi, incontrarsi, è difficile, secondo me, ne abbiamo parlato tante volte qui, e però è vero che abbiamo visto che è indispensabile, forse anche. È indispensabile, assolutamente, assolutamente. Da soli va benissimo tutto, insomma, ognuno nel proprio quartiere, nel proprio paesino. Vabbè, quindi però, ci auguriamo, sì, che accorrano diverse realtà vicine a voi e anche non. Ma se qualcuno avesse bisogno di più informazioni di logistica, c'è una mail a cui può scrivere o farti girare qualcosa su altri canali? Ora, io sono una piccola, felicemente, pedina della situazione. Vabbè, sto ripescando al volo, beh, evviva, è stato così, siamo tutti in una piccola parte, sto ripescando al volo, vedi la potenza di questi mezzi, il comunicato, se ci sia una mail, se no intanto diamo dei contatti più noi proprio delle nostre associazioni o movimenti, come vedi, allora, eccolo qua, proprio popolo. Perché almeno sulla botta che mi è stata inviata, grazie mille, perché poi vedi, si perde magari in un bicchiere d'acqua, giustamente è importante dare dei contatti. Vabbè, diciamo che sicuramente gireranno dei contatti magari sulla mailing list nazionale di Genuino Clandestino, e poi magari se in qualche modo ce li passate a noi della radio, per chiunque voglia informazioni, noi possiamo recuperare contatti e mettere in contatto chi ci sta ascoltando con voi. Assolutamente, assolutamente sì, così se ne riparla anche da voi in radio, diciamo, per ricordare questo, scusate, che ci questa clandestinità senza contatti, insomma. Ma, va bene, ma a proposito di contatti, vabbè, questo, insomma, pur parlare, nelle due ore precedenti è andato in onda un ponte radio, c'è, cioè, un gruppo di un collettivo, insomma, a Roma, che invece vorrebbe, insomma, provare a ripristinare una popolazione di sementi per la Palestina, visto che sono andati distrutti da poco la grande casa. Quindi magari se vi interessa vi metteremo in collegamento e ti invito ad ascoltare, insomma, la puntata precedente, che di cui ti manderò il link, perché comunque riguarda il lavoro grande e prezioso rispetto ai semi che voi fate. Ecco, questo per informazione. E l'ultima domanda, per caso, se no comunque abbiamo una mela portata di mano, tu sai anche un pochino che cosa accadrà il giorno dopo l'8 febbraio? C'è un incontro per chi vuole affacciarsi? So che c'è un incontro a Napoli. C'è un incontro a Napoli sugli OGM. So che c'è un incontro a Napoli, esattamente, e cioè, mi è stato detto assolutamente, non, perdonami, non conosco. No, infatti, ma ci avevano detto più dettagli. Ti chiedevo solo se per caso. Va bene, allora, intanto ti ringraziamo e diamo a tutti appuntamento da voi il 7 febbraio, e noi credo ci saremo, qualcuno di noi ci sarà sicuramente, così ci incontreremo dal vivo. D'accordo, grazie mille. Grazie Pietro, ciao. Buona giornata. A voi. Ciao. Bene, bene. Quindi prima di... Ho fatto troppe domande... Abbiamo fatto a al nostro amico Pietro e non ci risponderà mai più al telefono. No, non è vero, è stato bravissimo. Però allora vi diciamo due cose noi sull'incontro che invece si terrà il giorno dopo, che è l'8 febbraio, organizzato dal gruppo NOGM, e si terrà a Napoli, a Santa Fede Liberata, dalle ore 10 di mattina. E ovviamente, come diceva però il nostro amico Pietro, appunto ci sono questa serie di incontri in Campania, proprio perché, come diceva prima lui, abbiamo l'Agritech National Center, che quindi ha la base a San Giovanni a Teduccio, che è provincia di Napoli, poi appunto abbiamo il CREA a Ponte Cagnano, che sponsorizza i nuovi OGM, e per non farci marcare niente abbiamo anche a Benevento la sede della Leonardo. Allora, c'è un bellissimo appello che chiama appunto a questa giornata dell'8 per comunque cercare di fare gruppo, allargare un po' la nostra rete e cercare di portare avanti appunto questa battaglia, si sta facendo sempre più ardua contro questo intreccio tra tecnologia, agricoltura e appunto modificazioni genetiche, nelle quali vi stiamo tartassando ormai da più di un anno. E quindi niente, vi invitiamo, soprattutto i compagni campani, ma anche chi volesse venire da altre regioni, a scendere appunto il 7 e l'8 febbraio, perché sarà appunto una due giorni ricca ricca di incontri. Brano tratto da Io affilo la mia falce, Thomas Münzer e la guerra dei contadini, di Maurice Pianzolà, edizioni Tabor. Questi eventi scuotevano la Germania. Fu forse per questo che Münzer si recò a Württemberg verso Natale per incontrare ancora una volta Lutero, che non aveva più visto dalla disputa di Lipsia? È vero che più tardi lui negherà di aver fatto quella visita, mentre Lutero, insieme ad un altro testimone, sarà categorico nel confermarlo. Forse, sentendo montare l'effervescenza popolare, Münzer avrà provato a stringere qualche accordo, tentativo vano che ben presto dovrà rimpiangere? Sembra che ci siano stati uno o due incontri molto aspri in cui Lutero non si mosse dalla sua posizione, secondo la quale, usiamo questa immagine, il cielo appartiene a tutti i cristiani, mentre la terra deve restare proprietà privata. Quando in quei frangenti un uomo come il signor Heinrich von Eisendahl gli domandò se non era d'accordo a che le corvée venissero abolite, lui gli rispose che le avrebbe mantenute in tutta coscienza, in quanto è nell'ordine delle cose che l'uomo comune sia gravato di obblighi affinché non si sollevi. Parole testuali. Dopo questo sterile colloquio, sempre che sia mai avvenuto, non restò a Münzer nient'altro da fare se non riprendere il suo cammino come un frate predicatore. Saranno apparse decisamente sorprendenti le parole e le proposte di questo predicatore a chi ebbe occasione di incontrarlo. Proseguì il suo errare, non sappiamo bene dove, in compagnia di un giovane discepolo, parente alla lontana del tessitore anabattista Nicolas Storck. Un giorno questo ragazzo gli aveva portato un messaggio dei fratelli di Zwickau e da allora era rimasto legato a lui. Non dobbiamo dunque immaginarcelo ramingo e abbandonato da tutti. Al contrario, continuò a ricevere e a inviare messaggi, a scrivere lettere e a organizzare la sua rete di partigiani. Quello che potrebbe sembrare un vagabondaggio fu in realtà una pianificata campagna di propaganda e agitazione. E mo sto meglio su l'Irin, da stu posto e buci. Oggi scoperte carte in terra e faccio all in. Te va sin da suite, pochi anni in addì. Ro tempo persa che sta storia troppi buci. E borso chiene contante, pavena si con David. E fiamma brucia nei tagli, ma piccin da sti ferit. E luce in coppa via Roma, noi mani e mani più a street. Stammo vicino pure pigli nata virin da street. C'è sta chi ha cagnato zona, chi va fa sta buone figli. C'è sta chi ha avuta vittoria, che ha bascinato a sconfitto. Sapendo quello che perde, non sa c'è quello che arriva. Secondo giorno arrivo primo, un colpo punterà a rito. Call me, you know, baby, baby. Un biglietto di New York, stai lontano da me. Da te, voglio vivere con te. Non è, si nasce lo se sta se. Questo è Sono rimasto solo in questo buco nero. Niente collane d'oro, la vita a quale prezzo? Partirò via da 6 edifici per aver scommesso di realizzarmi nel mio sogno chiuso nel cassetto. Sai che non vedo l'ora di dire ce l'ho fatta. Asciugherò le lacrime sul viso di mia mamma. Butterò via quel Motorola e anche il passamontagna che mi ha tenuto sempre sveglio, niente ninna nanna. Accendo un'altra paglia, pioggia di colpi a terra. Petty che piange solo chiuso nella cameretta. Il vento qua non cambia, corro dentro la selva. Sarò felice un giorno di toccare quella stella. Baby, baby, un biglietto per New York, sai non darà a me, a te, voglio vivere con te, non è, si nasce lo stesso a te, lo sento. Non nego te, ma sento giovere, più buono, più vivo. Non va su gel la sera sotto ponte Brooklyn. Come va in frevo quando ti sfrutta e non rida. Ti cerca in terra Times Square, paro stile. Voti a stacchio assai tu solo, per stacchio vicino. Quando fa solo capo e muro, prima capo sciglia. Per me sta musica è una cura, ma fa un breast scena. Quando ti vega si non groover in da drum machine. Bam, bam. O sai casina star, nessun di sti bastard. Noi che vestiti l'arc, stiamo in de stessi strade. Siamo animali che cambiano stato brada. Siamo arrivati da fame in questo riprato. E va perso di cart, una dupiezza non gar. A violenza di karma, una carezza di calma. A street in dana park, stiamo in de Central Park. Che nessuno ci spart, e non è mai troppo tardi. E ci faceva piacere un po' contestualizzare questa canzone, perché ci è arrivata appunto tramite il giro, diciamo, genuino. Però questa canzone nasce praticamente tra le mura dell'istituto penale per minorenni di Airola, che quindi è a Benevento, quindi diciamo rimaniamo sempre in tema campano. Si chiama Petit e è questo brano di questi gemelli salernitani che si chiamano Two Shot e hanno fatto un featuring con Lucariello per creare questa canzone. Quindi insomma ci faceva piacere farvela sentire, perché credo non sia molto, diciamo, per ora passata sui canali quelli più normali, e speriamo che questo progetto appunto musicale prosegua. E invece adesso vi, come vi accennavo prima, vi contestualizzo invece un attimo la lettura. Da Io affilo la mia falce, che sono proprio, diciamo, gli anni a ridosso della rivolta contadina del 1525, capitanata da Münzer, però insomma che in qualche modo accoglieva il malcontento di molte migliaia di contadini e contadine che in quegli anni soffrivano nelle terre, le angherie e le tasse dei nobili e soprattutto del clero. È un libro molto, sì, molto incentrato sull'aspetto rivoluzionario, che attiene più alla sfera religiosa, nel senso che era quello il canale attraverso il quale si manifestavano in quegli anni le forme di dissenso orale, e non c'era, diciamo, era un discorso politico mimetizzato, ecco, dietro a un discorso più religioso, che però era di fatto una lotta di classe, come sempre sono le rivolte. E questo è un libro, direi, che ha un approccio molto storico, però per chi come me e come molte di voi ha amato Q di Luther Blissett, è un ottimo compendio, insomma, perché comunque l'ambientazione è quella, gli anni sono quelli e i protagonisti più o meno anche. Per questo, insomma, ho pensato di trarne un brano che sicuramente non è esaustivo, perché non è neanche un libro molto facile da sintetizzare o da prendere, sì, così per brani emblematici, però intanto, insomma, mi sembrava anche ben sintonizzato con il prossimo incontro del genuino, dell'ampio genuino che si terrà a Salerno il 7. E quindi vi lasciamo adesso, come vi dicevo prima, all'intervista a Pierfrancesco Diari, che ci parla un po' della situazione palestina. Allora, eccoci qua, siamo adesso a fare una chiacchierata con un compagno di Ari e volevamo un po' parlare di quello che era successo in Palestina ai primi di dicembre, quindi l'attacco che c'era stato a una sede dell'UAC, dimmi se sbaglio la pronuncia. È giusta, esatto. Perfetto, perché poi c'era già stato un attacco comunque quest'estate, no? Alla Casa dei Semi. Esattamente. E poi volevamo, insomma, farti un po' di domande anche sull'appello che avete lanciato, e poi sappiamo che è una piccola delegazione internazionale, diciamo, della Via Campesina, tra cui due persone di Ari sono anche andate in Palestina. Quindi nulla, ti faccio iniziare. Grazie mille, grazie dell'invito. Sì, esattamente, purtroppo gli attacchi all'Unione dei Comitati dei Lavoratori Agricoli Palestinesi, che è l'organizzazione membro della Via Campesina in Palestina, di cui poi fa parte anche ARI, un'associazione rurale qua in Italia, inserisce nel quadro di una stretta terribile contro la società civile e i movimenti sociali in Palestina, come abbiamo visto dagli annunci che seguono da settimane ormai, di per esempio espulsione delle ONG, delle organizzazioni internazionali da Gaza, organizzazioni umanitarie, di assistenza sanitaria e quant'altro, e dalla anche sempre più difficile capacità di lavoro e di operatività delle agenzie dell'ONU, addirittura, no? Con la distruzione della sede dell'UNRWA a Sheikh Jarrah, quindi nella Gerusalemme Est occupata da parte dell'esercito, proprio capitanato dai vari ministri del governo Netanyahu. Vediamo che appunto la società civile non ha più benché minimo livello di protezione da parte né delle istituzioni internazionali né da quella che si poteva dire essere un po' diciamo lo scudo diplomatico della cooperazione internazionale, della cooperazione europea, perché stiamo parlando di organizzazioni che comunque ricevono, nonostante le accuse continue di fiancheggiamento del terrorismo e cose varie, mai trovate, mai motivate da parte delle autorità israeliane di occupazione. Di fatto stiamo parlando di tutta una serie di organizzazioni di base, ma che ricevono comunque da anni un riconoscimento anche internazionale da parte della cooperazione, dei fondi di aiuto allo sviluppo cosiddetti da parte dei paesi europei, quindi sono soldi, diciamo, che sostengono queste organizzazioni, che vengono anche dai nostri paesi, e non è una novità che purtroppo il governo israeliano, l'esercito israeliano distruggano infrastrutture civili, agricole e sociali, finanziate di fatto anche poi dagli stessi governi europei complici di Israele, quindi si crea un cortocircuito nel quale però abbiamo visto che le organizzazioni e i movimenti palestinesi stanno realmente subendo una grave riduzione degli spazi di agibilità. Certo. Cosa è successo? Scusami se ti interrompo un secondo, sì. Ma ci puoi dire un po' qual è il ruolo che c'ha appunto l'UAC in Palestina, che se non sbaglio è dagli anni 80 che esiste? Sì, certo. Diciamo che l'UAC è una delle più grandi organizzazioni agricole palestinesi. Il suo obiettivo è sempre stato quello di affiancare le comunità rurali e gli agricoltori nel rivendicare i propri diritti, specialmente sul campo. Non sono una ONG come la immaginiamo noi, sono un'organizzazione di base piuttosto operativa e molto vicina agli agricoltori sul campo, perché fondamentalmente danno aiuto tecnico e operativo a piccoli progetti di, per esempio, rivendicazione delle terre. Questo significa che se ci sono dei campi, dei terreni molto pericolosi da coltivare e che quindi vengono, perché ovviamente soggetti agli attacchi dei coloni o dell'esercito israeliano, gli agricoltori in quelle aree tendono negli anni, per preservare la propria sicurezza, a non entrare o entrare molto di rado a fare le operazioni culturali principali in quelle zone. Con l'aiuto di UAC vengono date per esempio dei piccoli aiuti a livello di acquisti di per esempio alberi, barbatelle di vite, piccoli alberi di olivo, oppure materiale per l'irrigazione. Soltanto il rimettere in funzione alcune infrastrutture irrigue, alcune operazioni agricole e piantumare degli alberi, per esempio, in un terreno che è a rischio di abbandono, permette di reclamare, di rivendicare la proprietà e l'attività agricola su quel terreno e rende più difficile diciamo, la sottrazione, la requisizione di questo terreno da parte delle autorità israeliane, perché esistono tutta una serie di leggi e di normative e di prassi per cui l'esercito israeliano, il governo israeliano, quando un terreno non viene lavorato per un tot di tempo, possono incamerarlo tra le proprietà delle diciamo occupate. Ottimo, una specie di uso capione violento. Sì, è una specie di uso capione, esattamente, che purtroppo ha visto fin dagli anni 50 con delle leggi, la legge degli assenti e altre leggi, proprio una espropriazione massiccia di terreni delle persone che erano state espulse durante la Nakba, dei palestinesi che erano stati cacciati. Ma poi questa architettura legislativa comunque permane e ci sono continui piccole espropriazioni, piccole o grandi espropriazioni di terreno. Negli ultimi due anni questa pratica, sia per far posto a nuovi insediamenti, sia per una volontà politica molto precisa del governo israeliano, sta continuando a ritmi sfrenati. Addirittura agli inizi del 2024, in soli sei mesi, i dati ufficiali dicono che Israele ha occupato più terra nei primi sei mesi del 2024 di quanto ne avesse occupata negli ultimi vent'anni prima di questa stessa data. Pensiamo quindi, insomma, quanto è veloce e pervasiva ormai la strategia di sottrazione di terre. Ci sono terreni enormi, soprattutto verso la Valle del Giordano, nelle zone semiaride che separano la Valle del Giordano e le alture degli altipiani intorno, che sono zone di pastoralismo da millenni, e lì ci sono piani di espulsione delle comunità beduine, seminomadi, dei pastori molto intensi, e c'è tutta una nuova strategia da parte dei coloni israeliani di occupare le terre fingendosi pastori. Quindi ci sono dei coloni con delle piccole greggi e mezzi motorizzati, eccetera, che girano quelle terre, cioè, spingendo via i beduini, i pastori palestinesi, e appropriandosi di vastissime aree di territorio, tanto per fare un esempio. Madonna, sono cifre, sì, abbastanza impressionanti, e purtroppo via via stiamo vedendo che l'attenzione comunque sulla questione palestina si sta abbassando. Forse è uno sfiancamento dovuto alla lunghezza del tempo, però comunque, appunto, tornando alla domanda che ti volevo far prima, stiamo vedendo che tutto sta andando avanti anche molto rapidamente, quindi se ci vuoi raccontare un po' quello che è successo appunto il primo dicembre. Esatto, sì. Allora, diciamo che già l'UAC era stata nel mirino delle autorità israeliane. Tra l'altro, chi crea questi dossier accusatori nei confronti delle organizzazioni popolari o della società civile, sono stati gli stessi dipartimenti dei servizi segreti che poi hanno passato alla procura italiana i vari dossier che hanno fatto partire le indagini ai compagni palestinesi che sono stati arrestati negli ultimi mesi qua in Italia. Quindi c'è proprio una linea diretta di quelle che è diciamo l'impianto accusatorio dei palestinesi in Palestina e dei palestinesi qua in Italia. Sì, come abbiamo visto adesso il processo ad Annan. Esatto, e anche gli altri processi di Genova sono sempre tutto parte dagli stessi organismi dei servizi segreti che passano le carte, fondamentalmente anche qua in Europa. E questa aperta e chiusa parentesi, quello che è successo appunto è che già nel 2021-22 UAC era stato oggetto di raid simili, ma purtroppo i tempi politici sono cambiati, e quest'anno, subito dopo la campagna di raccolta degli olive, dopo già delle avvisaglie nell'estate 2025, perché a luglio era stata distrutta una prima unità produttiva delle sementi, un campo di riproduzione che diciamo era periferico, quindi non pregiudicava tutta l'operatività di tutta la casa delle sementi, ma comunque aveva avuto un certo impatto sulla produzione annuale delle sementi che venivano redistribuite distribuite ai contadini gratuitamente, come sapete è l'unica regola che c'è nella Casa delle Sementi, oltre a ovviamente la volontà di portare avanti e di conservare e di redistribuire le sementi di varietà locali, e l'unica regola è quella che i contadini devono restituire a fine raccolto una quantità un po' maggiore, 15-20% in più delle sementi che avevano ripreso, che avevano richiesto gratuitamente. Quindi questo è un modo per mantenere gli stock, mantenere in circolo e aumentare la quantità di sementi a disposizione di altri produttori e produttrici. Questo primo attacco di luglio ci aveva fatto allarmare e avevamo già fatto partire appunto quest'estate la campagna Farmers for Farmers, e dopo vi racconto meglio. Poi UAC ha lanciato la chiamata per i volontari internazionali per la raccolta delle olive, che è un qualcosa che tradizionalmente fanno molte organizzazioni agricole palestinesi, perché durante la raccolta delle olive c'è un picco di attacchi da parte dei coloni e dell'esercito per impedire questo momento economicamente e culturalmente molto importante per la società palestinese. Visto che la raccolta delle olive quest'anno, vabbè, la raccolta in sé diciamo era un po' povera per ragioni climatiche e anche di alternanza stagionale, quello che invece è andato molto bene è stata la risposta dei volontari e degli attivisti internazionali, perché tra tutte le organizzazioni attive di solidarietà internazionalista si stima che ci siano state 1.000-1.500 persone tra ottobre e novembre, i primi di dicembre in Palestina per la raccolta delle olive, quindi una presenza straordinaria da tutto il mondo veramente. E a vendetta di questa cosa UAC è stato particolarmente bersagliato, perché in primis i gruppi di volontari e di attivisti che erano presenti lì sul territorio sono stati targetizzati dall'esercito israeliano in maniera abbastanza mirata. Ci sono stati all'inizio della campagna di raccolta, quindi a circa metà ottobre, 32 arresti di volontari internazionali che sono stati espulsi, alcuni anche con accuse pesanti di fiancheggiamento del terrorismo. Questo è stato praticamente l'arresto di massa di internazionali più grande degli ultimi anni, sicuramente in Palestina, e forse uno dei più grandi in assoluto. Poi, al termine della raccolta delle olive, c'è stato un raid micidiale e di vendetta, di ritorsione contro questa organizzazione, che ha visto i due uffici di Hebron e di Ramallah completamente distrutti, vandalizzati, chiusi adesso con sigilli e lastre di ferro piombate sui muri e sulle porte, sulle finestre, requisizioni di tutti i materiali, computer, documenti, casseforti, soldi, qualsiasi cosa si possa immaginare, e soprattutto la chiusura e la possibile, probabile distruzione o requisizione dei materiali, perché nessuno è mai riuscito poi a entrare dopo ancora nei locali della banca dei semi. Quindi tuttora diciamo la situazione è ferma da questo punto di vista. Sì, purtroppo ovviamente diciamo che le persone sul campo sono estremamente caute e certo. Non è, diciamo, è presto per capire come si riorganizzeranno per reagire a questo attacco. C'è un'estrema cautela e stanno valutando la situazione, perché c'erano stati 8 arresti. Per fortuna nel corso di un paio di mesi le persone sono state, compagne e compagnia sono state tutte rilasciate, però sono ovviamente sotto osservazione e sotto controllo da parte delle autorità israeliane, quindi bisogna muoversi in maniera estremamente cauta. A livello internazionale stanno continuando comunque le campagne di solidarietà, di raccolta fondi preventiva, perché ci sarà, arriverà un momento comunque in cui speriamo, ci auspichiamo, ci sarà bisogno di ricostruire quello che è stato distrutto dall'esercito. Pensate che addirittura questo raid si è svolto in diretta televisiva, quindi hanno mandato insieme ai militari una troupe televisiva che ha ripreso le operazioni, ha ripreso proprio l'irruzione negli uffici. Wow! E sì, una cosa orribile. Addirittura sono state trasmesse le immagini dello staff dell'organizzazione televisione, inginocchiati per terra, bendati, con questi della televisione che gli facevano delle domande tipo: ma voi supportate i terroristi, cose di questo genere. Ormai non ci sono limiti all'immaginazione, purtroppo, del sadismo e della repressione israeliana. E invece poi però, appunto, sappiamo appunto che è andata una delegazione appunto della Via Campesina, tra cui due diari, e quindi volevamo sapere un po' quali erano state le impressioni, come era andata. Sì, allora diciamo che in realtà questa delegazione era stata nel 2024, poi ci sono stati altri diari e altri compagni italiane durante la raccolta delle olive quest'anno, okay. Quindi c'è stata una presenza sia nel 24 che nel 25. Nostra e del Movimento per la Sovranità Alimentare Italiano. L'impressione è quella che purtroppo la situazione sta degenerando e sta peggiorando di veramente non di anno in anno, ma di mese in mese, o settimana in settimana. E ovviamente il Sumud, la resilienza, la resistenza dei palestinesi stupisce sempre e sicuramente ci stupirà anche in questa occasione per reagire a questo ennesimo attacco. Però quello che fa impressione è proprio il fatto che non esistono più linee rosse. Israele si permette di superare i propri limiti ogni volta impunemente. Sì, impunemente, senza, esatto, ogni volta c'è una meno reazione dal punto di vista internazionale, istituzionale, e quindi ci chiediamo quale sarà veramente il, insomma, la nuova strategia che anche noi dobbiamo iniziare a immaginare, perché fare bonifici verso la Cisgiordania, non parlare di Gaza, è sempre più difficile, e dare un sostegno economico, quindi continueremo a farlo e tanti gruppi in Italia lo stanno facendo, però abbiamo visto che da una parte ormai è represso anche questo tipo di solidarietà, e comunque i canali, insomma, di trasferimento di denaro alle organizzazioni popolari palestinesi sono molto presidiati. Dal punto di vista di agibilità dei viaggi di solidarietà è sempre più difficile entrare in Cisgiordania, perché comunque i controlli alla frontiera sono sempre più pesanti, e dal punto di vista anche delle organizzazioni di cooperazione ci sono fior fior di cooperanti che hanno passato anni della propria vita a Gaza o in Cisgiordania, che non hanno più visto rinnovato il proprio permesso di lavoro. Perché quindi la nostra domanda che ci siamo fatti, parlando anche con compagne italiane, per esempio, che ormai lavorano ad Amman in Giordania per coordinare progetti di solidarietà e di cooperazione in Palestina, perché non possono più entrarci. E la domanda che ci siamo fatte è come il movimento internazionalista riuscirà a riorganizzare le proprie strategie, perché comunque questa occupazione va avanti da 77 anni, ma sta peggiorando, sta fondamentalmente stringendo il proprio cappio attorno ai palestinesi, ma attorno anche alla solidarietà internazionale. Quindi dobbiamo fare uno sforzo immaginativo e di strategia politica, ecco. E invece, scusami, per quanto riguarda l'appello che avevate lanciato, è arrivata qualche risposta? Vi hanno ignorato? Allora, l'appello dobbiamo ripubblicare, questa è un'anteprima assoluta per Radio UAPA. Anteprima mondiale. Perché, esatto, anteprima mondiale, perché la settimana scorsa ci è arrivata una risposta da parte di una delle direzioni del Ministero della Farnesina, degli Affari Esteri, che ha risposto, perché noi avevamo fatto una lettera raccogliendo moltissime firme, ringraziamo tutti i firmatari, le realtà e i singoli e le singole, perché dopo appunto l'attacco del 1° dicembre avevamo fatto questa lettera aperta al Ministero, alla Farnesina e all'Istituto per l'Agenzia per la Cooperazione Italiana, e ci hanno risposto una lettera, diciamo, diplomatica molto generica da parte del Ministero, che comunque già è un segnale che ci abbia risposto. Infatti ripubblicheremo sul sito di Aria brevissimo questa lettera, quello che ci dicono sostanzialmente è che il governo italiano si impegna per gli accordi, per gli aiuti umanitari a Gaza, che è stato, sono stati bravi perché hanno accolto molte persone evacuate da Gaza con gravi problemi di salute. Nel frattempo ne arrestano altri, ma va bene, insomma. Ecco, infatti. E si impegnano diplomaticamente per la soluzione ai due stati. Quello che ovviamente non hanno risposto nella lettera è quello che dicevamo, che chiedevamo noi, invece era proprio spiegazioni su come intendano tutelare sia le organizzazioni palestinesi della società civile, ma anche le organizzazioni italiane che appunto vedono ormai i propri visti di lavoro sistematicamente rifiutati da Israele. E su questo a quanto pare la diplomazia italiana non ha strumenti e né volontà politica di agire, purtroppo. Senti, io ti ringrazio molto per questa intervista e penso che avremo modo di risentirci più avanti e speriamo magari anche con qualche notizia migliore. Certo, grazie, lo speriamo anche noi, sicuramente il movimento in Italia, grazie anche a voi e a tutti quelli che continuano a parlare di Palestina, insomma, avrà modo e capacità di trovare nuove strategie e nuove forme. Intanto ci rimaniamo aggiornate e grazie dell'invito. Grazie a te. Terus menggema, hancurkan segalanya. Teriakan di mana-mana, merobek telinga. Tanah suci dihujani, peluru tak henti-henti. Dunia seakan tuli, seolah tak peduli. Dimana keadilan? Mengapa? E rientriamo in studio per il nostro bellissimo Agri Quiz. Allora, oggi, come avete potuto probabilmente sentire, cioè abbiamo avuto un po' di falle nella questione regia, quindi avete sentito probabilmente un brusio di sottofondo perché la dama ci ha abbandonate e io e Pamela, come due intrepide e valorose, abbiamo lasciato i microfoni aperti mentre andavano avanti le registrazioni. Ma non è colpa nostra, è che abbiamo cambiato mixer e prima funzionava in un modo diverso, quindi io pigiavo dei tasti ma non erano quelli giusti. Ma insomma, comunque, quindi non si può dire AgriQuiz senza la rubrica dell'AgriQuiz. Vamos ao AgriQuiz e precisamos de um separador humano. António Raminhos. La siglona preferita del mulo. L'AgriQuiz è a tema pastorizia, allevamento e pastori, quindi abbiamo qui con noi due pastori del mercato di Piazza Tasso, sono appena arrivati col treno alla stazione, adesso li facciamo un attimo presentare per farli scaldare un po'. Chi siete, dove state, che mercati fate? Io sono Katrin e porto i formaggi di pecora nera in Piazza Tasso. Ci siamo tutti venerdì, in più un martedì in Piazza Tasso ogni due, e in più il lunedì in Gavinano. Ci alterniamo con altri produttori di formaggi. Ciao, io sono Massi, sto sopra Barberino di Mugello, l'azienda è Palace, e anche noi appunto siamo in Piazza Tasso il venerdì e ci alterniamo con Pecora Nera il lunedì in Gavinana e il martedì sempre in Piazza Tasso. Mi incuriosisce questo nome, che vuol dire? Da dove viene? È una divinità etrusca legata alla pastorizia. Ah, vedi, entriamo subito in tema. Ma allora, spieghiamo un attimo le regole ai nostri nuovi concorrenti, perché sia mai che poi dicono che siamo sreali, come funziona l'AgriQuiz. Abbiamo delle interessantissime domande da farvi, ovviamente a tema allevamento e caseificazione, oggi solo per voi, create la nostra Pamela. Ma come funziona? Voi ovviamente avete un solo microfono in due, questo porterà a capitolo competizione a salire mentre vi litigate per raggiungere il microfono, ma per prenotarvi c'è una parola chiave con cui voi vi prenotate, invece del pulsante noi abbiamo la parola, e la parola cambia sempre perché è a tema dell'AgriQuiz. La parola per voi oggi è spino, perché lo spino, come voi benissimo saprete, è un attrezzo artigianale usato per il taglio della cagliata. Quindi ora faremo una prova, quando volete potete dire spino. Spino. Spino. Bravi, esatto. Poi vi voglio agguerriti, ragazzi, mi raccomando, che ora iniziano le domande. L'altra volta la piovoltura se le sono quasi date. E partiamo con la parte allevamento. Yes. Domanda numero uno. Siete pronti? Sì. Aspettate, prendo il quaderno per il punteggio. Quanti stomaci ha un ruminante? Spino. Prego. Allora, capre e pecore 2 e mucche 4. Perfetto. Come volevasi dimostrare, questi allevatori ne sanno più di noi. Noi avremmo risposto 4. 4 per tutti. E li avremmo anche voluti elencare al nostro pubblico, se non fosse che siamo meno preparate di voi, e quindi teniamo buona la tua risposta. Caro Massi, tu acquisti un punteggio, un primo punto. Seconda domanda: chi ha la gestazione più lunga tra vacca, pecora e capra? Spino. La vacca. Risposta esatta. Anche ragazzi, non vogliamo più agguerrire. Un punto. Comunque, questa cosa degli stomaci la approfondiremo nella prossima puntata e andremo a controllare se è vero. Però intanto diamo il punto. Intanto diamo il punto perché sennò... Ma abbiamo dei dubbi, dalla regia ci dicono che abbiamo dei dubbi. Siamo rimasti terrorizzati dalla volta scorsa, che ogni volta che mettevamo in discussione rischiavamo la rissa. Quindi diamo buono tutto, rispondete quello che volete. Allora veniamo un po' alla parte sfighe. Che cos'è la lingua blu? Spino. È una malattia che colpisce i ruminanti, soprattutto le pecore, e che vi devo dire di più? Virale o batterica? Sì, allora è una virale. Yes, è un po' perché si chiama lingua blu? Beh, perché uno degli effetti è appunto della lingua ha questo colore sul bluastro. Esatto, e quindi diamo un secondo punto. Siete pronti? Adesso vi faremo ascoltare una canzone e dovrete... Un breve, un mini estratto di una canzone. Queste sono le domande quelle proprio di cultura e sono il mio apporto solitamente alla Griquiz, quindi la parte idiota della Griquiz. Voi vogliamo sentire proprio 5 secondi. Proprio 5 secondi velocissimo. Voi ci dovrete dire che cos'è. Siete pronti? Via. Spino. Heidi. Bravissima, bravissima. Facciamo un replay con solo 3 secondi e via la canzone. Comincia a abbassarsi, ma abbiamo qualche domanda su Heidi, già che ci siamo, vediamo, adesso siete in pareggio 2-2, vediamo chi mi sa rispondere. Come voi ovviamente saprete, Heidi, famosissimo, è basato su un romanzo per ragazzi, scritto da un'autrice svizzera, di cui non pronuncio il nome perché tanto lo sbaglierei, e vorrei sapere in che anno è uscito questo romanzo, ma vi do 3 opzioni. E vediamo se la azzeccate. Io vi do come opzioni 1880, 1920, 1950. Spino? La prima, 1880. Ed è esatto, addirittura dal 1880, eh? Che bellezza questa informazione, mettetela nel taschino, rivendetela al mercato e secondo me farete dei pastori migliori. Esatto, successori. No, e vi faccio l'ultima domanda su Heidi, sempre, perché ormai io mi sono dedicata a questo oggi per questa agrimezza, è il mio contributo. Allora, parliamo un attimo della produzione del cartone di Heidi. Alla produzione di Heidi ha partecipato, diciamo, un personaggio che è molto conosciuto come regista di animazione in seguito, e per quanto riguarda Heidi era, diciamo, il responsabile appunto della parte layout e scenografia, però poi è diventata appunto famosissima, ha creato un suo studio e è molto famoso e sicuramente avete visto molti cartoni di questo autore. Mi sapete dire chi è? Sì, no. Ah, ah, preparati. La dobbiamo rifare, la dobbiamo rifare. 3, 2, 1, dice Spino. Spino. Prego a lei, signor. Ma io dico Miyazaki. Ed è la risposta esatta. Esatta. Quindi siamo sempre in un pareggio, ragazzi. Siete 3-3. E adesso torniamo alle domande serie. Quindi lascio la parola a Pamela e io implodo. La verità, però vi mette gioia questa canzone. Voi non li vedete, ma stanno saltellando. Stanno saltellando al ritmo di aria. Gioia e coraggio. Allora, veniamo a noi. La prima domanda sui formaggi è una domanda su un non formaggio. Perché la ricotta non è un formaggio? Viene definita formaggio perché non è una trasformazione del latte, ma del siero, che è un sottoprodotto del latte. E quindi non contiene la? Caseina. Perfetto. La ricotta non contiene la caseina, ma c'è una proteina secondaria. Come si chiama questa proteina secondaria della ricotta? Una proteina secondaria del latte. Il lattosio. Lattosio è lo zucchero. Del latte possiamo dare 3 opzioni se volete. Dacci 3 opzioni. Faccio solo l'impedimento. Peter o la siero albumina? Siero albumina. Oh, ma siete spino. Ma siete bravissimi. direi che questa domanda zero punti. Abbiamo provato, ma zero punti. La sieroalbumina è la proteina della ricotta, è una proteina che si comporta come l'albume dell'uovo e infatti flocula, ovvero viene a galla ad una temperatura elevata, variabile di latte in latte, ma comunque sempre superiore a Spino. 80 gradi. 80 gradi, risposta esatta. Per quanto riguarda la ricotta di capra, a questa domanda fuori busta. La ricotta di capra a che temperatura flocula? Alla Spino. La mia 84. Ah, ok. No, perché di solito flocula più ad una temperatura più elevata, quella del latte di capra, non è il caso. Per me è la mucca. Ah, quella flocula più alta, più... In realtà raramente flocula, se non gli dai un aiuto, certo. Un aiuto di acidità, tipo acido citrico o qualcosa del genere, insomma. Io non saprei dire la differenza perché faccio il misto capra-pecora da tanto, quindi non... E quindi il paragone di... La tua, che temperatura flocula la tua? 85, sì. Ok, comunque questa è la media, perfetto. Vai, questi siete pronti? Pronti, questa la sapete bene, è facile ragazzi. Che cos'è un formaggio erborinato? Spino. È un formaggio dove viene inoculato una muffa, di solito il più classico è il gorgonzola, dove viene inoculato il Penicillium Roquefort. Poi ci sono tantissimi formaggi erborinati. Ed è la risposta esatta. Io avrei detto un formaggio dove metti dentro le erbe, erborinato, come cioè. Tutti i clienti di Piazza Sasso, cioè colato erborinato e dentro le erbe, dai, no? Quella erborinata, l'erba cipollina. E per questo io sto zitta durante questa fase della greguizza e siamo 6 punti a 3. Quindi... E invece così, a completamento di questa risposta, quando un formaggio ha le erbe che vengono messe dopo, come si dice? Aromatizzato, è un'affinatura, no? Sì. Quindi è un procedimento che avviene successivamente alla formazione del formaggio. Ora, io facevo anche dei formaggi che durante la lavorazione magari inserivo delle erbe o dei sapori, tipo bucce di arancia. Certo, però quelli rappresentano un condimento, sì, giusto? Dentro la cagliata. Un formaggio prodotto da latte a crudo, come sono i vostri, e approfittiamo per sottolineare questa vostra peculiarità, che è anche una rarità, no? È una preziosità dei nostri mercati, quelli di avere il latte a crudo. Un formaggio prodotto da latte a crudo, quanto deve stagionare per legge prima di poter essere venduto? Spino, un mese? Perfetto. Ed ecco la risposta esatta. Torniamo alla chimica. Teniamoci duri. Quale processo chimico è il principale responsabile della produzione dei formaggi spalmabili appartenenti alla famiglia delle lattiche? Spino, qual è il procedimento? Cioè, il procedimento chimico, qual è? È la fermentazione lattica. Sì. Quindi una... Diciamo, viene lavorato il latte a una temperatura bassa usando un innesto di siero innesto, di solito si usa, o latte innesto, che permette al latte di coagulare in più tempo rispetto a una pressamia, che viene usato il caglio, diciamo, per far coagulare il latte. Catherine, vuoi io aggiungere avrei detto qualcosa? Acidificazione. Perfetto. E la risposta esatta è acidificazione. Che diventa più acida. Certo. Tu ci hai spiegato tutto il processo egregiamente. Sì, sì. E la risposta è questa: è la classica situazione che si crea nell'agriquiz. Sì. In cui la uno situazione completa. È spinosa. Allora, ragazzi, siamo. Diciamo 6, chi pronuncia meglio la parola Rottenmeier. 6 a 5. Abbiamo un'ultima domanda così alla volée inventata. Ci possiamo inventare per provare a vedere se riusciamo a creare una situazione di pareggio all'ultimo sangue. Ci dobbiamo pensare. Ma pare sì. Che abbiamo visto poco sangue in questo che inizio. Ci piace. No, sì. Di scannare. Si vuole bene. Non c'è concorrenza in Piazza Tasso. Siamo tutti amici. Va bene, allora non vi faremo nessuna domanda. Oggi ci sentiamo in versione, non lo so, c'è posta per te. E quindi in questa versione amorosa. concludiamo quindi l'agri-quiz con la vittoria del signor. Ma se vai! Oh no, lo sta picchiando! Oh no! Oh no! Vabbè, ringraziamo i nostri pastori, allevatori, produttori di formaggio e vi rimandiamo col vostro bel treno verso Piazza Tasso, perché noi abbiamo spedito la povera dama a tenere i banchi al posto loro e noi facciamo le cazzate con i microfoni, ma insomma va bene. Quindi grazie mille ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Ed è per questo che vi dedichiamo la prossima canzone, dal titolo E poi muori, di Davide Di Rosolino. Poi cresci, cammini, poi parli, poi studi, poi scrivi, poi il diploma, poi la laurea, poi il lavoro, poi la carriera, poi il matrimonio, poi la casa e la macchina a rate, poi la seconda casa per fare l'estate, poi il mutuo che pesa, un secondo lavoro, la tredicesima, un contratto buono. E poi muori, e poi muori, e poi muori, sì, sì, muori, e poi muori, e poi muori, sì, muori. Sei stato in India per meditare, in 18 moschee in ginocchio a pregare, sei figo e sai tutto tu, dal gusto dei vini alle serie TV, parli con esperienze, non sei mai banale, ragioni come se fossi immortale, sei tutto sugli uomini e sulla natura, ma anch'io su di te so una cosa sicura, che poi muori, che poi muori, che poi muori, che poi muori, sì, sì, muori. E poi muori, e poi muori, sì, muori. Pubblichi le foto felici sulle tue pagine social, insieme agli amici fa la sfida con gli altri a chi sembra più figo. C'hai tanti like di TikTok, tu sei il mago, ma dentro sei triste e fai finta che ridi mentre ti fai una foto e la condividi. Ti guardo e mi chiedo cosa stai facendo, non è che per caso stai dimenticando che prima o poi muori, che poi muori, che poi muori, sì muori, sì sì muori, e poi muori, e poi muori, sì muori. La palestra è l'alimentazione, la dieta equilibrata, fare attenzione. Poi l'estate, poi la prova a costume, pochi carboidrati, vietato il salume. Poi la birretta solo il sabato sera, ma se la prendi poi salti la cena. Solo carne bianca, un'insalatina, poi la corsetta alle 6 di mattina. E muori prima, sì prima, muori prima, sì prima, sì sì muori. E poi muori, e poi muori, e poi muori. Se sei giallo, se sei rosso, sei nero, se sei della Juve oppure del Toro, se sei maleducato oppure gentile, etero oppure diverso sessuale, se sei crudista oppure vegetariano, onnivoro oppure vegano, se sei netto, sei tanti di tu, se credi in Buddha ma metto Gesù. Muori anche tu, e tu, e anche tu, sì proprio tu, lo so muori anch'io, sì io, ma anche tu. Quindi rilassati e non aver fretta, sii gentile, gli altri rispetta, non perseguitare più nulla e nessuno, ed accetta le idee di ciascuno. Siamo così piccoli in questo universo, quindi non giudicare, ma che è diverso dai gusti sociali o da quelli del sesso, non rompere il cazzo per fare successo. Tanto muori lo stesso, lo stesso, lo stesso, adesso. Sì, muori, speriamo che nonostante questa canzone sia rimasto con noi in collegamento, dovrebbe esserci Luca. Sì, eccomi qua, buon pomeriggio a tutte le persone che ci ascoltano. Ciao Luca. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché volevamo farci un po' raccontare da te cosa succede domenica 1 febbraio a Torino. Allora, tra le varie cose che succederanno a Torino il 1 di febbraio, ci sarà anche la 14ª edizione di Una Babele di Semi. Si svolgerà questa iniziativa presso la Cascina Roccafranca, dopo magari maggiori dettagli sull'ubicazione, ed è una giornata che è dedicata allo scambio dei semi, alle autoproduzioni agricole, marze, bulbi, paste madri, saperi e all'economia del dono. È una giornata dedicata alla gratuità, quindi una giornata che ormai è giunta appunto alla 14ª edizione, sempre la prima domenica di febbraio, questo lo diciamo già anche per i prossimi anni, almeno speriamo di esserci, e per incontrarci, per fortuna siamo sempre un bel numero, costruire una dimensione mercatale nel vero senso della parola, cioè con i banchetti, col materiale sui banchetti, però per un giorno liberi dal denaro, cioè zero denaro, zero denaro per comprare, per vendere, per offerte, solamente gratuità, scambio di materiale genetico, cioè semi, materiale genetico in generale legato appunto all'agricoltura, o gratuità. Gratuità questo... nel senso che se uno non ha nulla può venire lo stesso a chiedervi qualche seme? Sicuramente può venire, può partecipare alla giornata, perché comunque è anche una giornata di carattere divulgativo, ci sono diverse mostre, ci sono incontri, seminari di cui magari parliamo dopo, e se trova le persone che sono disponibili anche a regalare modiche quantità di semi, certo, io non posso garantire che tutti li regalino, noi sicuramente nel banchetto di ASCI, visto che questa qui è una manifestazione organizzata dall'ASCI, Associazione Solidarietà per la Campagna Italiana, noi sicuramente sì, solitamente succede così, però solitamente anche succede che delle persone arrivano con delle proprie autoproduzioni, una persona ci ha scritto se poteva portare delle uova, delle proprie galline da scambiare, per fare un esempio, e la risposta è stata affermativa, ovviamente. Perfetto, ma e infatti noi sapevamo ci sono 5 punti fondamentali appunto per partecipare a questo scambio. Sì, diciamo che allora la giornata è principalmente dedicata appunto allo scambio dei semi, anche se non esclusivamente, e nello specifico quindi dello scambio di semi, noi abbiamo sempre detto che chiediamo a chi partecipa, sia chi ha il banchetto, sia chi arriva con il proprio canestrino o lo zainetto con dei semi, di attenersi a 5 punti. Il primo è lo scambio di proprie produzioni, autoproduzioni, che voglio dire, come accennato prima, semi, marze, piantini, bulbi, pasta madre. Quindi scambio di proprie produzioni, non di semi che ti hanno dato altri. Una reciprocità attraverso, come abbiamo detto, lo scambio, cioè io ti do e tu mi dai qualche cosa. Non è obbligatorio questo, cioè nel senso che uno può anche regalare, però è necessaria che ci sia una condivisione, un assenso di reciprocità. Piccole quantità è il terzo punto, assumendosi ognuno l'impegno per la riproduzione, nel senso che se io ti do 3-4 semi di pomodoro, probabilmente tu non è che ne fai tanto di quei 3 semi o 4 semi, però hai il genotipo, hai dei semi che hanno un patrimonio genetico e quindi tu sei obbligato a seminarli, riprodurli, farti i tuoi semi e poi dall'anno successivo ancora cominciare poi a seminare per una produzione. Quindi favorire appunto la riproduzione dei semi, favorire una produzione anche di semi che si adattano allo specifico ambiente in cui uno è, pianura, montagna, c'è gente che anche viene da fuori il Piemonte, per cui magari zone marittime, Quindi favorire l'adattabilità di ogni seme che viene distribuito e anche le conoscenze attraverso l'associazione di una scheda del seme in cui vengono inseriti dei 4-5 caratteristiche principali molto molto semplici: che varietà è, dove l'hai coltivato, in che anno, delle informazioni. Il quarto punto appunto sono le informazioni sul materiale, come accennavo prima, che sono sicuramente orali, perché poi si chiacchiera, si dice ah guarda io c'ho questo, io c'ho l'altro, e quindi le informazioni del materiale e di conseguenza anche il materiale che non sia soggetto ad alcun tipo di proprietà intellettuale. Cioè noi non siamo interessati a far circolare materiale commerciale, ci interessa far circolare materiale che arriva da nostri percorsi agricoli, possibilmente varietà, quelle che vengono un po' chiamate varietà locali, o anche delle miscele che abbiamo preparato negli anni dalle popolazioni evolutive. Quindi cerchiamo di emanciparci da quello che sono i circuiti commerciali, anche nello specifico materiale che facciamo circolare. Non è la Babele di semi che si terrà il 1° febbraio a Torino tutto il giorno, non è né la vetrina per i radical chic e neanche il supermercato dei poveri. È una roba in cui i contadini, le contadine si ritrovano, si scambiano il proprio materiale che hanno appunto coltivato. Chiaro. Ci piace, ci piace. E senti una cosa, all'interno di questa giornata ci saranno anche due laboratori, uno delle pratiche e uno dei saperi. Ci vuoi un po' dire in cosa consistono? Sì, sì, molto semplicemente associamo a un momento di convivialità e di scambio reale, materiale, attraverso delle pratiche, quello che abbiamo raccontato prima, anche lo scambio dei saperi. E quest'anno, che è la 14ª edizione, ci sarà un laboratorio delle pratiche dalle 10.30 fino alle 11.30, intitolato Cosa sono le autoproduzioni di fermenti Fervida, e questo lo terrà Marco della casa. Il pomeriggio invece andiamo su con i nomi, di nuovo la spariamo molto alta. Quest'anno ci sarà di nuovo, come è successo 11 anni fa mi pare, Salvatore Ceccarelli con il laboratorio di saperi alle ore 14, la scienza delle popolazioni evolutive, e a seguire ci sarà Stefania Grando che affronterà il tema della biodiversità e il cibo. Sono due argomenti che si intrecciano abbastanza, perché da una parte quest'anno noi abbiamo detto, deciso, non l'ho ancora detto, di mettere al centro della giornata un po' il tema dei pomodori, se dopo rimane qualche istante accenno anche il motivo di questa scelta, e a Salvatore Ceccarelli abbiamo chiesto di darci un contributo sulle miscele in generale e le conseguenti popolazioni eterogenee evolutive. Attenzione! Gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente. E allora, voi non potete vedere quello che è successo, ma praticamente è saltato tutto in regia, quindi per chi ci ascolta in diretta ha sentito un buco di più o meno un quarto d'ora in cui noi cercavamo di riattivare tutto e niente da fare. Quindi l'intervista al nostro povero Luca è stata tagliata, quindi l'avete sentita fino a che tutto non è esploso. Quindi salutiamo Luca, adesso non lo richiamiamo perché aveva un altro impegno. E ci stava per parlare appunto delle popolazioni dei pomodori, ma come chi è un nostro fan avrà sentito già in una vecchia nostra puntata, ne avevamo parlato appunto della possibilità di creare delle popolazioni evolutive che però fossero di pomodori, mentre fino adesso di solito se ne è parlato riguardo ai cereali. Quindi andate a spulciare sulle vecchie puntate, tanto c'è il trafiletto di ogni puntata e potete ribeccare quello dove si parla dei pomodori evolutivi. Esatto, quindi rimandiamo a chi fosse in zona Torino o a chi ha voglia appunto di partecipare alla giornata al 1° febbraio alla Babele di Semi, E adesso invece vi manderemo un piccolo brano musicale per poi concludere con la nostra bellissima rubrica di Cinemela. Ma salutiamo ora o salutiamo dopo? Non lo so, salutiamo ora? Salutiamo ora. Salutiamo ora perché siamo ancora scosse da quello che è avvenuto in questa regia oggi, tra microfoni aperti, fischi sotto. Si sa mai che risucceda qualcosa, quindi noi intanto vi salutiamo e vi ridiamo appuntamento a venerdì prossimo con un approfondimento della griottosa. E fra due venerdì saremo di nuovo qua in diretta per voi. E speriamo che vada meglio. Bene. Buon weekend a tutte! White parents whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings. Like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. To see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child, and what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad so he's talking back. Talking black, brainwashed from rock and rap. He sacks his pants, blue rags and a stocking cap. His stepfather hit him so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control. He just lets his emotions go. Of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Holy or unholy, only have one homie. Only this gun, lonely, cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a motherfucker. They can be great, or they can be great, or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make, like they worship us, plus all the store ship us platinum. Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing ass. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all gonna turn at you to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but it's grudges against me. If I'm such a fucking menace, this shit doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too, Guerrera. That was a bitch that hit you. Spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can sing your message. Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC. Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 4 della stagione 8 di Radio Contado. Oggi vi parlerò del film più bello che io abbia mai visto. Penso, sicuramente da molto tempo non vedevo un film così bello, importante, ben fatto, in cui il cinema esprime la miglior parte di sé, quindi crea interrogativi, suggestioni e fornisce veramente un sacco di elementi di riflessione quando il cinema fa il suo lavoro. Sirat, partiamo dal significato di questo termine. Sirat è un attraversamento, secondo l'Islam il ponte su cui ogni persona deve passare dopo la morte e per entrare nel paradiso. Non è menzionato nel Corano, ma è descritto dagli Hadith. Si dice As-Sirat sia il più sottile di una ciocca di capelli e affilato come la spada più affilata. Al di sotto di questo ponte ci sono le fiamme dell'inferno che bruciano i peccatori per farli cadere. Coloro che hanno compiuto atti di bontà nella loro vita sono trasportati attraverso il sentiero a una velocità che dipende dalle loro azioni e che li conduce al paradiso. In questo deserto, che non è un luogo ma uno stato, il ponte non è dopo la vita, è la vita stessa. Questo film racconta la storia di un padre e di un bambino, il suo figlio, che cercano la sorella di questo bambino, la figlia del padre. Entrambi sono l'emblema di un mondo in decadenza. Il loro aspetto, il loro, diciamo, portato non verbale esprime chiaramente questa condizione. E si muovono nell'ambiente dei rave, dove fanno degli incontri a cui si aggregano per andare appunto alla ricerca di questa giovane ragazza di cui non hanno più notizie da 5 mesi. Questo viaggio, appunto, carico di simbolismo, avviene in un ambiente magico, meraviglioso, reso in maniera bellissima nelle scene del film, perché appunto è ambientato in Marocco, tra la catena dell'Atlante e il deserto, e infatti anche per la fotografia e per la scenografia ha ricevuto dei premi importanti di Film Awards durante quest'anno, perché è un film attualmente che trovate al cinema. E durante questo viaggio succedono una serie di cose, e anche apparentemente in alcuni momenti sembra non succedere proprio nulla. Quindi è un film che mantiene come un ritmo crescente su questo mistero di questa ricerca, ma in realtà è sul mistero della vita stessa. Gli interpreti sono persone che realmente fanno parte del mondo dei ravers, e che quindi sono persone che organizzano e partecipano ai rave con tutto quello che è il portato e il mondo che sta attorno a questi eventi. E devo dire che è un film che ci ho messo 24 ore per ammortizzare il colpo. È un film ricco di colpi di scena eclatanti, come appunto solo il cinema riesce a fare, ma riesce a fare raramente. E quindi, quando per capirci in sala senti le persone dire "oh no", rimanere sbigottite, e questa è anche la sensazione che ha dato a me questo film, che ci ho messo anche un po' per capirne il vero portato appunto simbolico che aveva in sé. Ecco, vi consiglio di andare a vederlo, perché secondo me vi potrà piacere molto, anzi moltissimo. C'è tutto questo mondo poi dei ravers, che è anche vero, reale, perché sono delle persone che comunque fanno questo nella vita, girano e organizzano e partecipano a rave, con tutto quello che significa anche ciò che ci sta attorno, quindi la musica, e anche per il sonoro ha ricevuto un premio appunto dei Film Awards. E ecco, questo secondo me è un film raro. Raramente il cinema riesce a trasmettere con questa forza e con questa capacità tutto quello che è il mistero della vita e le sue contraddizioni. Per questo ve lo consiglio. Il regista si chiama Oliver Lax, è un regista spagnolo che però vive in Marocco, e giovane, direi molto, molto interessante e promettente, e quindi ve ne consiglio la visione. Chi mi chiede come si fa, dico che basta, ma ed io amo fare il premier, mi casa come terrier. Quando ero bambino vestivo come manichino della Terrier, rapevo le burraco, bimbi scuri e chapelle, otto babysitter con auricolari e taglieri, e dalla scuola elementare furbente lesto trafficavo sotto banco, quello e questo. Una volta condannato ricorrevo in appello, poi venivo protetto dal mio... Il secondo film che vi volevo consigliare per questa puntata si chiama Bird, ed è di una regista donna che si chiama Andrea Arnold, ha preso anche questo dei premi. È un film del 24, però è uscito nel 25, quindi penso che si possa ancora trovare nei cinema, e ha ricevuto anche questo dei premi premi awards per miglior regia e miglior attore europeo con Franz Rogowski. E è un film che racconta un momento della crescita di una ragazzina di 12 anni all'interno di questo nucleo familiare assolutamente caotico e disfunzionale, in cui il padre si sta sposando con una nuova compagna. È ambientato in una parte dell'Inghilterra provinciale, è molto di sobborgo urbano, e quindi c'è tutto un clima e un ambiente molto legato anche alla malavita, o comunque a delle vite, ecco, molto, molto precarie, le definirei molto precarie e molto ai confini tra il benessere e malessere, anzi direi più malessere che benessere. E però è un film che ha una sua tenerezza nelle relazioni umane che ci sono tra queste persone, tra lei e il fratello, tra lei e il padre, tra lei e la madre, e come comunque la difesa degli affetti predomina su tutto quanto il resto. E ovviamente ci sono anche molti bambini, molte persone giovani, molti attori bravi nelle loro interpretazioni. E anche questo è un film che è molto, molto realistico e molto poco strutturato, direi molto poco cinematografico. Lo definirei un film un po' punk, anche per la colonna sonora e anche un po' per il clima che crea, e penso che possa piacervi, e penso che questo lo possiate forse già trovare in streaming, mentre Sirat è ancora nei circuiti cinematografici. La prima intenzione, ogni capo deve avere un capo di mutazione. Sono un presidente in erba, non me ne fatto della Maria, perché io lotto ma per la... la mia legalizzazione. Legalize the L'ultima segnalazione che vi faccio per questa puntata di Cinemela riguarda La Duse, il film di Pietro Marcello che potete trovare su Netflix, un film molto estetico, direi più un film che ha l'aspirazione di essere, ecco, più un'opera d'arte che un'opera politica. Questo è il suo pregio, però a mio avviso è anche un po' il suo limite, visto che in questi tempi una figura femminile storicamente collocata nel periodo fascista ispira più una visione, uno sguardo politico, politicizzato, più che uno sguardo estetico. Però devo dire che è un film ben fatto, che trovate su Netflix. Maestro divenuto adolescente, la prima intenzione, ogni capo deve avere un capo di mutazione. Sono un presidente in erba, non me ne fatto della Maria, perché io lotto ma per la mia legalizzazione. Legalize Segnalo infine che La Zona di Interesse, il film di Jonathan Glazer di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che racconta la vita quotidiana del comandante di Auschwitz e della sua famiglia che vivono in fianco appunto ai forni crematori, e di cui appunto abbiamo già parlato, che ha vinto numerosi premi, Oscar nel 24 eccetera, e lo potete trovare, adesso è arrivato sulla piattaforma gratuita di RaiPlay, e quindi per chi non l'avesse visto è una buona occasione per vederlo. È sicuramente un film che ci fa riflettere sulla banalità del male e che potrà stimolare sicuramente, oltre che render nota anche quanto la crudeltà dei campi di sterminio fosse la quotidianità dei nazisti. Su queste ultime segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, soprattutto vi consiglio di andare al cinema a vedere Sirat, e vi attendo alla prossima puntata di Cinemela.